giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Attacco hacker al porto di Trieste, la rivendicazione, come accade il 12 gennaio, è di un gruppo russo. Nella rivendicazione si definisce il presidente Mattarella russofobo. A Gradisca si cerca l'arma con la quale un trentenne del posto ha ferito ieri sera due ragazzi e una ragazza. L'uomo si trova in carcere a Gorizia in attesa dell'udienza di convalida. Elezioni comunali a Pasqua ebraica, un disegno di legge urgente in discussione in Consiglio regionale chiede di estendere l'orario di votazione di lunedì per agevolare gli appartenenti alla comunità ebraica. Trieste al via la riqualificazione di 4 topolini di Barcola, previsto il rifacimento delle fognature, la demolizione delle banchine, il rafforzamento dei pilastri, la sostituzione delle porte. A 2 anni dall'inizio degli scavi per le fondamenta, l'ITS Academy Udine ha traslocato nella sua nuova casa dove un tempo c'era lo stabilimento Dormish. Trieste Airport continua la sua crescita grazie alle nuove rotte che partiranno in primavera. Obiettivo: superare 1,5 milioni di passeggeri. Appuntamento con la musica da camera alla Società dei Concerti di Trieste. Questa sera sul palco del Teatro Verdi di scena il pluripremiato quartetto Jerusalem. Le 12.31 ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Andrei Marussi. C'è ancora un cyberattacco russo al porto di Trieste. Dopo quello del 12 gennaio firmato dalla sigla No Name 057 che non aveva creato problemi al sistema operativo e logistico dello scalo, oggi un altro attacco. L'hackeraggio arriva in un momento di alta tensione tra Russia e Italia dopo le durissime parole della portavoce del ministro degli esteri Maria Zakharova contro il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tanto che nella rivendicazione, stando alle agenzie di stampa, il capo dello Stato viene definito russofobo. Stando alla direzione dello scalo di Trieste da noi interpellato, non ci sarebbero stati effetti sull'operatività del porto. La Polizia Postale ha inviato una informativa alla Procura della Repubblica di Roma, mentre l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha avviato l'opera di supporto e mitigazione alle prime avvisaglie delle azioni. E ad essere stati presi di mira sono anche gli aeroporti di Linate e Malpensa a Milano, il porto di Taranto e Banca Intesa San Paolo. E non risulta ancora fissata l'udienza di convalida dell'arresto di AB, queste le iniziali del trentenne che ieri sera a Gradisca ha coltellato 3 persone. L'uomo in carcere a Gorizia mentre proseguono le indagini dei carabinieri. A Gradisca i carabinieri stanno cercando il coltello con il quale AB, questa è l'iniziale dell'arrestato, ha colpito una ragazza di 22 anni, un amico e un dipendente del caffè al teatro. Il trentenne, residente a Gradisca, si trova ora nel carcere di Gorizia e ai carabinieri ha detto di essersi disfatto dell'arma mentre andava verso casa, dove abita con i genitori, ma senza dare indicazioni precise. È accaduto tutto in pochi minuti, ieri sera, intorno alle 20.30. Il locale si stava preparando per il karaoke e 3 amici, 2 ragazzi e una ragazza, si trovavano all'esterno per fumare. Improvvisamente è arrivato il trentenne e ha colpito uno dei 3, fratello di una sua ex fidanzata. La ragazza, che si trovava all'esterno del bar, ha tentato di allontanarlo, ma è stata colpita alla gola da un fendente. Nel frattempo è uscito un dipendente del bar ed è stato colpito anche lui. Subito dopo, il trentenne è fuggito verso casa. I carabinieri erano già sulle sue tracce quando il padre, vedendolo tornare sporco di sangue, ha chiamato il 112. Il bilancio è di 3 feriti, sono tutti fuori pericolo, 1 è già stato dimesso, mentre la ragazza, quella in condizione più grave, è ricoverata all'ospedale di Catinara e ha una prognosi di 30 giorni. Non è ancora chiaro il movente, ma pare che ci fossero stati dei precedenti attriti tra l'aggressore e gli aggrediti o alcuni di loro. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Estendere l'orario di votazione del lunedì fino alle 22 per favorire la partecipazione alla consultazione elettorale per le comunali di aprile e anche agli appartenenti alla comunità ebraica, ma anche la chiusura anticipata dei seggi la domenica alle 22 per agevolare gli scrutatori e lo spostamento degli scrutini a martedì. Sono i principali contenuti del disegno di legge urgente in discussione in Consiglio regionale e che riguarda la prossima consultazione elettorale nei comuni di Pordenone, Monfalcone, Monfalcone, Nimis e San Pier di Sonzo. La Pasqua ebraica si celebra dalla sera di sabato 12 aprile a domenica 20 e le elezioni comunali vedranno le urne aperte domenica 13 e lunedì 14 aprile. Il divieto di attività lavorativa e intellettuale per gli osservanti della fede ebraica terminerà poco prima delle 21. Lunedì 14 le previsioni di legge iniziali prevedevano l'apertura dei seggi solo fino alle 15, impedendo così di fatto il voto di lunedì agli elettori di fede ebraica. Le 12.35 e 25 secondi, uno sguardo al meteo, cielo sereno su pianura e costa, da nuvolosa variabile in montagna, le temperature registrate alle 11. Trieste 3 gradi, vento da est-nord-est, bora a 56 km orari con raffiche a 76 km orari. Gorizia 5 gradi e 5 decimi, Udine e Pordenone 4 gradi e 5 decimi. Tolmezzo 4 gradi, Forni di Sopra 5 decimi di grado, Piancavallo meno 1 grado e 5 decimi, Sappada meno 2, Tarvisio meno 3 gradi e mezzo. Sul Monte Zoncolan meno 5 gradi e 5 decimi, sul Lussari invece meno 10. Lignano 5 grado, 4 gradi e 5 decimi. Le previsioni: in giornata avremo cielo sereno o poco nuvoloso, sul Tarvisiano persistenza di nubi basse a fondo valle con possibili foschie. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora da moderata a sostenuta, specialmente a Trieste e sul Carso. Domani avremo cielo sereno o poco nuvoloso, sul Tarvisiano probabile persistenza di nubi basse a fondo valle con possibili foschie. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata a tratti sostenuta a Trieste e sul Carso, specie al mattino e in serata. A causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, anche nell'odierna giornata, i giardini pubblici recintati del comune di Trieste rimarranno chiusi, ad eccezione del giardino di Villa Sartorio in via del Modiano, che rimarrà aperto con il consueto orario unicamente per lo svolgimento delle attività lavorative negli edifici. Aperta oggi agli studenti la nuova sede dell'ITS di Udine. Le aule in cui da oggi fanno lezione i corsi di legno arredo, meccatronica e turismo sono dotate di sensori per la regolazione automatica della temperatura. Dai computer si vedono solo gli schermi, sfruttano la potenza di calcolo dei server al piano interrato. Nei nuovi laboratori non ci sono pareti a dividere la teoria dalla pratica. Demolita l'ex Dormish, a 2 anni dall'inizio degli scavi per le fondamenta, l'ITS Academy Udine ha traslocato nella sua nuova casa. Paola Perabò, presidente della Fondazione It's Academy di Udine. Stamattina abbiamo visto entrare i ragazzi con una luce incredibile negli occhi, con anche stupore per questa struttura pensata per loro. Tra un paio di mesi sarà finito il cantiere con l'anfiteatro, l'area ristoro, i parcheggi interrati, il giardino pensile e gli uffici in affitto. La nuova sede sta già ospitando studenti di 4 nazioni per il progetto Erasmus+, dedicato ai sistemi di arredo sostenibili. Nei laboratori attendono di essere attivati i macchinari, acquistati con 4,5 milioni di fondi PNRR, per formare i tecnici dell'industria 4.0, in cui le tecnologie sanno comunicare tra loro e restituire informazioni all'azienda. Michele Masone, coordinatore tecnico dei corsi di meccatronica. Qui siamo davanti a quella che noi chiamiamo una fabbrica digitale complessa. All'interno di questo strumento, di questa macchina, troviamo tutte le tecnologie Industry 4.0, dai robot ai sistemi di visione, ed è una macchina che abbiamo pensato e costruito internamente. Per l'uso dell'immobile è raggiunto un accordo temporaneo tra Danieli, che ha investito 25 milioni, e la Fondazione It's Academy. Il CDA ha deliberato all'unanimità un comodato d'uso gratuito per 5 mesi, grazie alla Danieli, che ha realizzato questa struttura. Nel mentre c'è l'impegno a reperire fondi a tassi agevolati per l'acquisto di questa struttura. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Presentati questa mattina alla stampa i lavori di riqualificazione dei cosiddetti topolini sul lungomare di Barcola a Trieste. È il rifacimento delle fognature collegate ai servizi igienici il nodo più complicato nei lavori di ripristino del lungomare triestino di Barcola, in cui le piattaforme dei cosiddetti topolini sono state danneggiate dalla mareggiata dell'autunno 2023. Chiarisce il coordinatore della sicurezza del cantiere di Barcola, Davide Novell. Si faranno i primi 2 topolini, cioè il 4 e il 5, per cercare di restringere il cantiere il prima possibile in vista della stagione estiva, per poi concentrarci sul topolini 6 e 7. Grazie alla creazione di una corsia a bordo carreggiata, l'impresa udinese a cui ha affidato il cantiere è riuscita a mantenere il passaggio pedonale nel corso di lavori programmati ancora per diversi mesi. In settembre è previsto il completamento dei lavori. Prevista una premialità in caso di anticipo della conclusione dei lavori, a fronte dei 3 milioni di euro stanziati dalla Regione. Lo scorso anno ne sono stati spesi circa 800.000 per i restauri nell'area della Pineta e del lungomare Benedetto Croce, mentre quest'anno si userà la rimanenza per una ristrutturazione che presenta delle complessità, come commenta il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Il problema qui era la fognatura, vedete. Queste sono le pompe che portano sui liquami che poi vanno verso il depuratore. È tutto rotto, per questo non ho potuto aprire, altrimenti l'avevo aperto già lo scorso anno. Bisogna rifare completamente l'impianto fognario. Preventivata la demolizione delle banchine, inclusa l'area sotto le terrazze, e il rafforzamento delle strutture, in particolare i pilastri e le travi degli spogliatoi, in aggiunta alla sostituzione delle porte danneggiate dalla mareggiata e all'allestimento di un parapetto per le scale. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'aeroporto di Trieste continua la sua crescita grazie anche alle nuove rotte che partiranno in primavera. Obiettivo, dopo aver superato il milione di passeggeri l'anno scorso, superare il 1,5 milioni. Ne abbiamo parlato oggi a Buongiorno Regione. I numeri record del 2024 sono replicabili, anzi miglioreranno. Trieste Airport, dopo il milione di passeggeri superato l'anno scorso, potrebbe nel 2025 andare oltre quota 1,5 milioni grazie agli investimenti fatti. Marco Consalvo, amministratore delegato Trieste Airport. È ancora presto per dirlo, perché vediamo come vanno i nuovi voli. Sono 5 nuove destinazioni, arriviamo a 27 destinazioni. Le previsioni che facciamo è superare 1,6 milioni, quindi più di 1,5 milioni. Dalla primavera crescerà anche il numero delle destinazioni raggiungibili. L'aeroporto regionale sarà connesso con Lamezia Terme, Bucarest, Praga, Rotterdam e Stoccolma. E se queste ultime due porteranno turisti in Friuli Venezia Giulia, le altre sono principalmente città che serviranno chi in regione ci abita. Adesso abbiamo 27 destinazioni, quindi abbiamo dei flussi che sono un po' più incoming, e altri collegamenti come ad esempio il Praga, che parte adesso a fine marzo, che immaginiamo sia più outgoing, cioè di residenti che vanno a Praga. Abbiamo un mix, un bilanciamento tra outgoing e incoming che adesso comincia a essere estremamente interessante. Decisivo negli anni scorsi per lo sviluppo dello scalo, che è passato dagli 800.000 al 1,3 milioni passeggeri in 5 anni, con in mezzo la flessione dovuta alla pandemia, la connessione con la stazione ferroviaria, che ha permesso di raggiungere l'aeroporto non solo dalle città regionali, ma anche da Venezia. Da quando siamo partiti nel 2018 con la nuova stazione, la nuova fermata Trieste Airport ferroviaria, abbiamo il 35% delle persone che arrivano in aeroporto che utilizzano il treno, quindi un'intermodalità che sta dando grosse soddisfazioni. Ronchi dei Legionari, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E da oggi il tram di Opicina raddoppia. In seguito al suo ritorno dopo 8 anni e mezzo, lo scorso 1 febbraio, alla prima vettura entrata in servizio, la 401, si aggiunge anche la 404. Il servizio è stato così potenziato a 39 corse quotidiane e nuovi orari, con le prime corse in partenza alle 7 da Opicina e alle 6.53 da Piazza Dalmazia. Le ultime corse quotidiane invece partono alle 19.54 da Opicina e alle 20.30 da Piazza Dalmazia. La Società dei Concerti di Trieste porta in città un evento di altissimo livello per il suo tradizionale appuntamento del lunedì sera. Alle 20.30 il palco del Teatro Verdi ospiterà il Quartetto Gerusalem, una delle formazioni di musica da camera più apprezzate a livello internazionale, che si distingue per la sua profondità espressiva. Quello previsto per questa sera è un programma ricco e variegato, un viaggio attraverso le epoche e gli stili, a partire dal quartetto in Do maggiore K465 Dissonanze di Mozart che state ascoltando, al quartetto numero 7 in fa diesis minore opera 108 di Shostakovich, per concludere con il quartetto in fa maggiore opera 96, detto anche americano, di Dvorak. Le numerose registrazioni del quartetto hanno ottenuto molti premi e riconoscimenti, tra cui il Diapason d'oro e il BBC Music Magazine Award. Prima del concerto, alle 19.15, il pubblico avrà l'opportunità di incontrare gli artisti al Ridotto del Verdi in un momento di dialogo e confronto condotto dal direttore artistico della Società dei Concerti di Trieste, Marco Secco. Un'occasione per approfondire la conoscenza di questi musicisti e del programma che eseguiranno. Al via quest'oggi gli incontri di formazione per nuovi volontari che desiderano inserirsi nelle attività della comunità di San Martino al campo destinate a giovani e adulti con fragilità. Presso il centro San Martino in via Udine 19 dalle 17.30 alle 19.30 il primo appuntamento. Siamo alla pagina dello sport con la vittoria per 3-0 contro l'Empoli. L'Udinese è in serie positiva da 3 giornate, con 33 punti si posiziona a metà classifica, a 2 punti dalla Roma, ma soprattutto a più 13 dalla zona retrocessione. Il 4-4-2 calza a pennello. L'Udinese con il suo nuovo vestito conquista 7 punti nelle ultime 3 gare. Contro l'Empoli la squadra di Rugnaic ricomincia dai Kellenkamp. Dopo il gol segnato al Napoli, ecco la rete che spezza l'equilibrio di una sfida dove la squadra di D'Aversa spreca occasioni con Kwame, prima e dopo il vantaggio firmato dall'olandese. Forse troppe, ma alla fine i friulani non subiscono gol, non succedeva da ottobre scorso. Difesa a 4 per la prima volta con Izibue a destra. Abbiamo fatto un allenamento sempre in questo modulo, cosa dobbiamo fare, cosa è pericoloso, cosa è una buona occasione per noi, e io penso questo modello è perfetto per noi. Nella ripresa l'Udinese mette a nudo le fragilità dell'avversario grazie alla sua aggressività. Luca cerca ma non trova il decimo sigillo, doppia cifra e primato personale soltanto rimandati, colpa del palo e di Silvestri che respinge, ma è ancora Kellenkamp a fare festa per la terza volta di fila, questa volta sotto la curva dei suoi tifosi. La voglia di Toven, leader per talento tra i bianconeri, è premiata al 90° sull'assist di Pagero, sesta rete in campionato per il francese. L'Udinese ha 10 punti in più rispetto alla passata stagione, solo il Napoli ha fatto meglio nel confronto. Era chiaro che volevamo appunto essere duttili, vi era l'idea in testa di giocare con la difesa a 4. Nell'ultima partita ha funzionato bene come soluzione e adesso vedremo, prenderemo la decisione più adeguata secondo noi di partita in partita. Non è escluso che giocheremo appunto di nuovo a 3. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il volley, con la vittoria di ieri su Cuneo, la Tinet Prata si è riportata in vetta alla classifica di Serie A2, 3-2, risultato finale maturato in un match altalenante con la Tinet partita in vantaggio, superata da Cuneo e poi tornata in careggiata in un tie-break serratissimo. I gialloblu mantengono 1 punto di vantaggio su Brescia e 2 su Ravenna. Rimangono in fondo alla classifica di A1 femminile invece le ragazze della CDA Talmassons, che ieri sera hanno perso a Cuneo per 3-1. Uno dei match chiave per la corsa salvezza del Talmassons non è andato bene. Vittoria per 3-1 del Cuneo, che incamera 3 punti. Le dirette rivali, Bisonte, Firenze, Roma, Perugia e lo stesso Cuneo, hanno mosso la classifica e il terz'ultimo posto si allontana ancora, 4 lunghezze. Eppure il primo set era iniziato bene, con la squadra friulana in maglia bianca sempre avanti e addirittura capace di procurarsi 6 set point sul 24-18. La rimonta di Signorile e compagni ha segnato non solo il risultato del parziale ma dell'intero match. Il 28-26 ha lanciato le padrone di casa ed è stato un duro contraccolpo per il team di Barbieri. Cuneo ha proseguito nel secondo set sulle ali dell'entusiasmo. Sul 16-8 il parziale era saldamente nelle mani delle piemontesi, che hanno controllato il tentativo di rimonta delle friulane. 25-19 e padroni di casa avanti per 2-7-0. L'attesa reazione della CDA è arrivata nel terzo set, nel quale le friulane si sono ritrovate sul 21-16 e questa volta il vantaggio è stato mantenuto e rafforzato fino al 25-17. Ma il sestetto allenato da Pintus si è ripreso nel quarto set, che ha proposto un copione simile al secondo, più 5 sul 16-11, più 7 sul 21-14. Talmassons non è riuscita nell'impresa di ribaltare il punteggio e Cuneo ha portato quasi 3 punti, chiudendo l'ultimo set a 19. In casa CDA sempre molto utilizzata l'opposta Stork, autrice di 21 punti, anche se con 36% di realizzazione. Molto servita dalla palleggiatrice Eze, anche l'ala principale Stranzari. Da segnalare nel Cuneo la centrale triestina Cecconello, che ha messo a segno ben 7 muri punto. Le statistiche fra le due formazioni sono abbastanza equivalenti. Le piemontesi hanno fatto un pochino meglio in ricezione e in attacco e questo è bastato a fare la differenza. Paolo Roncoletta, TGR, Friuli Venezia Giulia.